pioggia d'autunno quella sera, e poi l'inverno in un mattino. La primavera presa in volo, pensai d'estate lei verrà. È un anno ormai che non mi fai più vivere. Un giorno accendi la speranza, poi d'improvviso cambi idea. E il tempo passa su di me. Sto riprovando sensazioni dimenticate in un cassetto. La vita mia sta naufragando nel mare immenso dell'amore. Ma da domani dovrai pure deciderti se non mi sveglio dal mio sonno. Se non mi sveglio dal mio sogno.